Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisne. Saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Con la mezz'ora di oggi concludiamo la doppia puntata iniziata lo scorso lunedì, incentrata sul tema dei morti del lavoro e più in generale della sicurezza sui posti di lavoro. In studio con voi Cristiano alla voce e Andrea alla regia. Abbiamo parlato l'altra volta, partendo da un rapporto dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, della seconda conferenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro tenuta a Napoli, sulle figure che sono preposte al rispetto di questa legge, su cosa fanno i governi in generale per far sì che dati assolutamente allarmanti come quelli del rapporto, parliamo di circa 1141 decessi dal gennaio al novembre 2006, appunto per far sì che questi dati possano in qualche modo decrescere. Continuiamo oggi parlando appunto del fatto che molti infortuni sono causati dall'intensificazione dei ritmi di lavoro e da uno sfruttamento sempre maggiore a causa della precarizzazione dei rapporti lavorativi, provocata in particolar modo dalla legge Biagi-Maroni. Se a questo si aggiunge che gli investimenti per rendere più sicuro l'ambiente di lavoro sono l'ultima delle preoccupazioni delle aziende e che lo sfruttamento intensivo riguarda sempre più anche i settori esternalizzati e privatizzati, allora la salute di chi lavora è sempre più a rischio. Infine va ricordato che molti servizi, un tempo a gestione diretta e pubblici, sono oggi gestiti da aziende, cooperative e ditte private che hanno vinto gli appalti al massimo ribasso, cioè attraverso la riduzione del salario e risparmiando su tutto, sicurezza in primo luogo o addirittura in subappalto. La sicurezza non si raggiunge attraverso la concertazione, ma attraverso vertenze contro le inadempienze delle aziende e soprattutto la lotta contro flessibilità, precarietà e lavoro nero. Leggiamo da un comunicato del COBAS del lavoro privato della Confederazione COBAS di Pisa, appunto, che è inaccettabile che imprenditori senza scrupoli scarichino costi altissimi sul Servizio Sanitario Nazionale e sull'intera collettività, speculando sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici, magari a nero o in condizioni di costante ricatto. Se i dati ufficiali insistono sulla diminuzione degli incidenti in generale, infatti, si dimentica spesso di ricordare che invece aumentano quelli subiti dalle donne e dagli extracomunitari, spesso le più e più sacrificati sull'altare della precarietà e dello sfruttamento in nero. E soprattutto in quel bacino di mercato medio-basso delle piccole aziende cooperativistico e spesso improvvisato che gli enti preposti devono immediatamente porre l'attenzione e ricercare mancanze quasi sempre palesi, carenze del rispetto normativo che si traducono in tragedie irrimediabili. Conclude il comunicato della Confederazione Cobas del Lavoro Privato appunto dicendo che le forze politiche, sia di destra che di centrosinistra, che si sono susseguite nelle ultime legislature hanno sulle spalle pesanti responsabilità. Esistono anche responsabilità dei sindacati confederali che finora si sono limitati a denunciare la situazione degli infortuni sul lavoro senza creare una vera e propria mobilitazione tra lavoratori e soprattutto continuando ad accettare appalti e contratti in cui la sicurezza è la prima ad essere sacrificata. Abbiamo già detto che una grande causa di questa tragedia quotidiana sta sempre nella maggior precarizzazione dei rapporti lavorativi. Allora andiamo a sentire chi realmente vive sulla propria pelle questa situazione. Parliamo con Christian del collettivo Precariatesia, un gruppo di lavoratori e di lavoratrici che già da 2 anni si sta mobilitando per cercare di invertire quella rotta precarizzante che invade il nostro paese. Christian, nell'azienda per la quale lavori viene rispettata la legislazione prevista, viene rispettata la 626? Allora, io lavoro in Adesia, il più grande call center d'Italia, e no, devo dire abbastanza facilmente che non viene rispettata la legge sulla sicurezza del lavoro. Gli ambienti sono inadeguati, le postazioni non sono a norma, la qualità anche acustica, quindi è molto rilevante, non è per, non ci sono, ad esempio non ci sono pannelli fonoassorbenti, tutto quello quindi che implica a livello di rumore e di stress. Anche la qualità dell'aria non è buona e tutto ciò si aggiunge anche legato alla tipologia contrattuale, perché essendo noi pagati a cottimo, la 76 prevede per i videoterminalisti quali noi siamo che ci sia una pausa retribuita di 15 minuti ogni 2 ore. Se noi ci fermiamo per 15 minuti, in quel periodo noi non guadagniamo nulla, quindi le persone non si fermano. E quindi insomma è un modo anche quello per aggirare la legge. Certo. È presente nella tua azienda la figura dell'RLS, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? Dentro Adesia l'RLS è un delegato CGL che è distaccato, quindi non sta dentro Adesia, che è un'enorme contraddizione, in quanto proprio il ruolo che dovrebbe avere è quello di essere, di stare nel posto di lavoro, vigilare continuamente su quelle che sono le condizioni del lavoro, e invece questa persona non lavora dentro Adesia, quindi non si capisce in base a cosa possa esercitare questo ruolo, che ha anche delle implicazioni anche penali, perché poi le violazioni della 626 ricadono sul penale e sono di diretta responsabilità del datore di lavoro, che deve essere necessariamente informato dell'RLS. Se questo non è dentro l'azienda, non si capisce come possa esercitare il proprio ruolo, ma evidentemente questo non è un problema per la CGL, né per la CISL, né per la UIL. Certo. Quindi credi che la 626 abbia soltanto un valore per chi può usufruire eventualmente di un contratto subordinato? Sicuramente è un modo che un contratto a tempo indeterminato è un ulteriore passo avanti, c'è il modo di richiedere alcune cose che ti sono riconosciute. Essendo pagato a cottimo c'è una ricattabilità evidente che si percuote anche sulla sicurezza sul lavoro, ma questo in tutti i campi, pensiamo agli edili. È chiaro che se uno ha un contratto in scadenza e viene sempre rinnovato, se viene pagato a cottimo, sono tutti elementi che fanno sì che per un maggiore guadagno, che si parla sempre di sopravvivenza, si passi sopra magari a quelli che sono delle necessità per la salvaguardia della propria salute. Quindi insomma, un ricatto a cui viene posto di fronte il lavoratore, quindi sono due discorsi non separabili, quello del tipologia contrattuale e quello della sicurezza sul lavoro. Senti, cosa pensi della figura dell'RLS e del suo legame inscindibile con le grandi organizzazioni sindacali? E dici anche due battute circa i servizi ispettivi, come funzionano? Allora, dentro Atesia, comincio l'ultima cosa, dentro Atesia noi più volte abbiamo chiamato l'ASL, non è mai venuta. L'ispettore del lavoro è venuto dietro la nostra sollecitazione, ha fatto delle segnalazioni che però rimangono, cioè per legge sono anonime, cioè non anonime, però cioè non vengono rese pubbliche, quindi noi non sappiamo cosa è stato rilevato e quindi non possiamo neanche controllare se poi queste cose sono state realmente sistemate, quindi se si è provvedute alla loro alla reale applicazione della legge. D'altronde, invece, qui tornando alle rappresentanze sindacali, ogni anno loro firmano tutto quello che c'è da firmare, cioè, quindi l'azienda presenta un documento in cui si parla del rischio, di come sono state fatte tutte le varie esercitazioni, ad esempio adesso è uscito un documento in cui comunicavano di aver sottoposto visite mediche a tutti quanti i lavoratori, e che è falso perché non l'hanno fatto, a come sia stata fatta la prova di evacuazione di fuga, stiamo parlando di un palazzo dove lavorano 3.000 persone, quindi non è una cosa banalissima. Anche questo viene firmato in assoluta leggerezza e non senza nessun problema. D'altronde il discorso è lo stesso, CISL e UIL si preoccupano solo di firmare accordi nell'interesse solamente del datore di lavoro e non dei dipendenti, altrimenti insomma tutta la storia si dimostra quello, e sono sempre un incontro alle esigenze aziendali, all'inizio non riconoscendo la natura subordinata di questo lavoro, e adesso una volta che sono costretti ad ammetterlo per quello che è successo con l'ispettore del lavoro, lo fanno nelle condizioni peggiori per i lavoratori. Tutto ciò si vede anche quando si parla di salute e di sicurezza, insomma si certifica tutto quanto serve all'azienda e non ci si preoccupa invece di quelle che sono le reali condizioni in cui lavoratrici e lavoratori si trovano insomma, ad operare. Certo, Cristian, noi ti ringraziamo del contributo e ti salutiamo. Grazie a voi. Ciao. Ringraziamo Cristian, esponente del collettivo Precari Atesia, una delle realtà sindacali auto-organizzate che meglio ha saputo controbattere alla precarietà dilagante nel nostro paese. Allora la domanda sorge spontanea: com'è possibile che le istituzioni da un lato si riempiano la bocca di concetti quali sicurezza, sacralità del lavoratore o mai più morti, e dall'altro lato emanino o non abroghino leggi che altro non fanno che causare il ripetersi di questa condizione di guerra? In proposito, citiamo brevemente una battuta di Umanità Nova che appunto parla di flessibilità in entrata nel mondo del lavoro e flessibilità in uscita dal mondo e basta. Thank you. Parliamo anche, come non potremmo non parlarne, dei cantieri edili, sedi purtroppo storiche di tragici eventi. Le cifre chiaramente anche in questo comparto sono spaventose. Troppo spesso non comprendono i dati reali sugli extracomunitari che lavorano in nero, che non sono denunciati né da vivi né da morti. Le loro vite non esistono e anche le loro morti evidentemente non esistono. Restano fantasmi anche nella morte. Troppe volte si tace sugli incidenti, i morti sono portati fuori dai cantieri e i feriti vengono cacciati, non solo perdono le cure ma anche il sostentamento. Il numero più alto di incidenti nei cantieri non è, come immaginiamo, nelle regioni meridionali d'Italia, ma nella tanto civile Lombardia. A Bologna Cofferati per la seconda volta ha mandato le ruspe all'alba a distruggere le baracche abusive e gli attendamenti dei poveri disgraziati. Ma perché? Nessuno mai è stato mandato a verificare se le condizioni di lavoro dei cantieri rispondono alle misure di sicurezza e nessuno ha mandato controlli sui caporali che scelgono carne umana ogni mattina a metà paga e sempre nel medesimo posto. Perché non ci si chiede come mai il livello di partecipazione dei lavoratori edili alle lotte della classe sia fra i più bassi in assoluto? O perché in questo settore, come in pochi altri, il caporalato continui a prosperare inosservato? Le ragioni sono evidenti, in questo settore i profitti sono più che mai legati al grado di sfruttamento della forza lavoro. Le modalità stesse del lavoro permettono interi settori di lavorazione occulta, fuori, cioè da sguardi indiscreti, il che significa orari senza limitazioni, modalità di lavoro incontrollata, gestione diretta e dispotica della forza lavoro e della sua mobilità. Concludiamo questa nostra doppia puntata con alcuni accenni del saggio di Filippo Viola, La società astratta, un sistema di indifferenza nella nostra realtà quotidiana, un saggio edito dalla Edizioni Associate, un saggio che ci sembra un punto di vista più che opportuno da cui partire per capire il perché la situazione non cambia ed il perché non si riesce a porre un argine da parte dei politici, dei governanti, a questa guerra nascosta, con chiaramente l'ovvia complicità dei media che usano soltanto parlare dei morti che più li attirano. introduzione la definizione di società astratta per Filippo Viola è che la società capitalistica, per poter funzionare come società formalmente democratica, deve prescindere dalla concreta esistenza degli esseri umani, deve cioè non tener conto di come le donne e gli uomini realmente vivono. Sulla base di questa considerazione definiamo società astratta l'organizzazione capitalistica della società regolata dalle istituzioni della democrazia formale. Astratta non nel senso che è una società irreale, ma nel senso che fa astrazione della realtà sociale. Società astratta dunque nel senso che è un sistema di indifferenza alla condizione esistenziale degli uomini e delle donne in carne e ossa. Nella sfera politica vengono affermati i principi di partecipazione, libertà, uguaglianza, fratellanza, giustizia. Nella sfera sociale vengono istituite strutture e attivati rapporti che invece producono autoritarismo, repressione, disuguaglianza, rivalità, ingiustizia. Da una parte questa società ambigua proclama principi, dall'altra crea presupposti strutturali perché non si realizzino. In sostanza è una società truccata. La separazione tra la sfera politica e la sfera sociale produce quindi astrazione sociale. La sfera politica si struttura facendo astrazione dalle condizioni reali che si vengono a creare nella sfera sociale. Di conseguenza, la dinamica del sistema istituzionale prescinde dalla concretezza esistenziale degli uomini e delle donne. La società capitalistica, continua Filippo Viola nel suo saggio, formalmente democratica e astratta perché è strutturata per l'affermazione di un valore altro rispetto alla realizzazione esistenziale degli esseri umani. Il modo capitalistico di produzione tende a deviare il processo sociale generale dalla concretezza esistenziale ed a convogliarlo verso un valore astratto, il profitto. I soggetti che costituiscono la collettività sono persone concrete, uomini e donne in carne e ossa, sono persone robuste, snelle, alte, basse, bionde, brune, bianche, nere, sono persone estroverse, introverse, talvolta allegre, talvolta tristi. Nella società astratta, nel sistema di indifferenza alla condizione esistenziale degli uomini e delle donne in carne e ossa, si prescinde da tutti questi caratteri che fanno di una persona questa persona e non un'altra. La persona concreta viene diluita in un'entità astratta, la forza lavoro. È il primo passo verso la configurazione di un individuo astratto concepito come pura funzione della valorizzazione capitalistica. Quel che realmente importa è che la società astratta, per essere tale, deve poter contare in qualsiasi momento ed a qualsiasi livello su una disponibilità allo stato puro. E questa disponibilità la può offrire in senso pieno soltanto un individuo considerato come entità astratta, avulsa dalle concrete specificità esistenziali. Rumba la rumba. concludiamo con queste brevi battute del saggio di Filippo Viola, La società astratta, un saggio che tra l'altro ritroveremo anche in seguito nelle prossime puntate. Appunto, concludiamo questa doppia puntata e ci diamo appuntamento, diamo appuntamento a tutte e tutti il prossimo lunedì. Pueden bombar, rumba, rumba, rumba, man. Pero nada pueden bombar, rumba, rumba, rumba, man.